su caffè, amore. Pietro, è uscito, vieni! Ma che vieni? Puoi darmi il lungo pianerotto! E buonasera ragazzi, buonasera! Siamo qua con Pianerottolo Caffè, siamo partiti adesso. Allora ragazzi, benvenuti, benvenuti a questa prima puntata di Pianerottolo Caffè. Siamo qui, stiamo cazzeggiando un poco e stiamo cercando di ritrovarci e di ricapire che cavolo dobbiamo fare oggi. E la prima cosa da dire è chi cabba siso siamo, perché Pianerottolo Caffè, Pietro? Non lo so, io sono venuto a chiedergli una fotocopia a Riccardo perché stiamo praticamente uno di fronte all'altro. Nello stesso pianerottolo, giustamente. E niente, visto che lui aveva una radio, ho detto, aveva questa radio su www.vapensiero.it, ho detto, ma che fa, facciamo un programma tutte e due, dato che non ne passiamo un antichietto tempo, ci facciamo quattro risate. E niente. Pianerottolo, perché Pianerottolo Caffè? Facciamo caffè. È venuta a lui questa idea, perché forse data da Camera Caffè. Forse no. Molto probabile. E niente, siamo qua. Scasseggiare. Uscafazzato o parrino? Picchi o parrino? Amore, a dire, io non lo so. Perché parrino? Picchi tipo tutto un uomo di chiesa, va a farsi la confessione. Ancora usa la chiesa. Non lo so, è sciano. Ancora va in chiesa, capito? Tu ti rendi conto? Che schifo. Ancora c'è gente che pratica la chiesa. Gente che non la pratica, lui direbbe. È scafazzato invece. Scafazzato. Anzi, spasciato. Spasciato pure perché la canciamo spasciato perché dice che. Gente, io l'altro ieri sono andato a finire all'ospedale in maniera molto carina perché la mia schiena è praticamente bloccata. Minchia quanti ascoltatori, wow. Mamma mia, stiamo ascoltando noi. Io e mamma detto, cioè, no, dobbiamo andare in diretta, sto cazzo, stiamo la registrando praticamente. La gente è impazzita, stiamo autoascoltando. Quindi, allora, adesso partiamo con, anzi continuiamo con Clint Eastwood che era già partita da è stato un errore, è partita per i fatti suoi e allora adesso la rimettiamo, continuiamo con Clint Eastwood dei Gorillaz. È partito the song, perfetto. È partito song 2 dei Blur, scusate, siamo ancora un po' imbranati. Non ti preoccupare. I've got my head shaved by a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing it ends. Yeah. Eccoci ritornati in onda, anche se il nostro scafazzato, appunto poi uno si dice è scafazzato, dice se n'è andato a consegnare una cosa a casa, perché siamo, come abbiamo detto, siamo nello stesso pianerottolo, e continuiamo le nostre discussioni. Noi siamo appunto il Parinazzo e lo Scafazzato, siamo qui, stiamo cercando di costituire questo nuovo programma, dove ci sarà anche qualche sketch, ci saranno discussioni, ci sarà musica che man mano scegliamo, che anche voi potete richiedere, potete mandare file, potete mandare quello che volete. E poi noi ne discuteremo. Ora, appena se il nostro caro Pietro si dà una bella mossa, noi adesso parleremo un po' di Benvenuti al Sud, di questo film che è stato fatto qualche tempo fa, e appunto della differenza fra nord e sud. Pietro sta arrivando, eccolo qua, arriva, oh, eccolo qua, mi dica via! Non mi si può togliere. Stazzatemi, che stavi dicendo? Stavo parlando di nord, sud, giù, basso. Ma che è un arriero diventò? Sì, nero. Si schifiò. Comunque, stavi dicendo. Allora, stavo dicendo che c'è un nord, c'è un sud dappertutto. C'è un nord al nord e un nord al sud. Siamo in Europa, siamo in Italia, siamo nel mondo. Nord del mondo e un sud del mondo, nord Italia e un sud Italia. Vabbè, già mi confondevo. Un nord Italia e un sud Italia. C'è persino un nord nello stesso palazzo. Ma certo, no, nord, c'è una differenza abissale di due persone che non c'entrano un cazzo completamente. Però intanto noi due siamo qua, questi siamo io e Riccardo. Noi siamo al centro, scusa. Mettiamo i puntini sulla I. Io non sono del sud. Noi siamo del centro. Io non sono del sud, noi siamo al centro. Al centro. Noi siamo al centro del mondo, il nord Europa, il sud c'è l'Africa, eccetera. Noi siamo proprio al centro. Stiamo bene, perché è un tipo che è un tempio bello, si sta tiepidi, non ci disturba nessuno. Si sente solo ogni tanto qualcuno che magari fa la scopatina di mezzogiorno, so. Sì. Però si sta bene. Dai. E niente. Partiamo con una canzone tipicamente nordista. Che parla di una grande piaga che abbiamo al nord Italia. Ah, vero, questa mi piace. Esatto. E lo sapete cos'è? Indovinate un po'? Il caffè, il nord Italia, specialmente a Napoli. Porca miseria! Mi piace questa cosa del caffè, ma anche i milanesi, proprio milanesi. Quando scendono al sud, quando scendono al nord, ti dicono: ragazzi, bevete troppo caffè. Allora, io sono un attimo là dentro, c'è mio fratello, che per adesso sono un po' sminchiato, e quindi mi è venuto a trovare. Cosa stava facendo secondo voi? Si è preso il caffè. Mi sono preso il caffè pure io 30 secondi fa. Pure al centro del mondo. Ci piace il caffè. Quindi il caffè. Ora, perché abbiamo fatto questo attacco così? Perché noi abbiamo visto, non so se l'avete visto, un paio di giorni fa hanno fatto. Ne parlavo delle Benvenuti al Sud. Hanno fatto questo film. Praticamente, se voi l'avete visto, praticamente si vede lui, quello che è Bisio, che interpreta il tipico milanese che scassa la minchia, perché ha sempre questi pensieri: ah, in Sicilia, in sud, questo e qua, là. Vede, racconta a sua moglie che praticamente mi ha avuto questo pensiero: ah, bevono sempre caffè, sono attivi, superattivi, perché bevono ogni 5 minuti il caffè. E poi si ammazzano. E poi si ammazzano. Tu vedi che cosa. Capito? Quindi ho detto, facciamo questa piccola cosa. Visto che già la gente si sarebbe rotta le scatole di sentirci parlare da mezz'ora. Da mezz'ora. Io direi che è meglio partire con Don Raffaè. Di Fabrizio Di André. Che parla di... caffè. Oh, che bello caffè, sono a Napoli, lo sanno. Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio Alla sera mi sento uno straccio, per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Con ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma. La svalutazione e la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi le stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. A ricetta cacci cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. A ricetta di cicirinella, compagna di cella, precisa mamma. D'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chissà che a te. Rieccoci, rieccoci in diretta. Ed eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Allora. Allora. Pietro, questa è dipendenza. Questa dipendenza da tutto, ormai c'è dipendenza praticamente... da qualsiasi cosa, anche da una donna. Chi è questa donna? Ma chi è questa donna? Chissà. No, ci sono tante donne. Tante donne. Ma io sono dipendente dal sesso. Dipendente dal sesso. Sai, io ho bisogno di sesso sempre. Sesso. E che ci sessi? Sesso, io sesso qualsiasi cosa. Quindi non sei libero. Eh? Se sei dipendente non sei libero. Così. Vabbè, non è che essere libero. Ormai c'è una dipendenza in tutto. E in che cosa? Non lo so. Tipo Facebook. Lo sapete che Facebook in questi 10 anni ha cambiato la mente dei palermitani, come la mente di tutti gli italiani. Praticamente c'è gente che non si riesce a stare staccato da Facebook, per esempio neanche a scuola. Sì. Per esempio, un luogo... Voi dovete sapere che il parrino qua, il parrinazzo, un pezzo di parrino, è insegnante di religione presso una scuola qui a Palermo. Chissà quale scuola, tu la conosci per caso? Ma non lo so, io ci andavo pure in questa scuola. E niente, sì, dipendenza da tante cose. Uno può essere dipendente, ora dicono la droga, mm-hmm. Uno pensa alla droga, no, minchiate, perché uno può essere dipendente da qualsiasi altra cosa. Tipo, che cos'è quindi la dipendenza secondo te? non potrà far meno di una cosa. Perché uno arrivato a un certo punto dice no, aspetta, non riesco a stare senza Facebook, senza la droga, senza la sigaretta. Ma perché c'è una mancanza di base, secondo me. Quindi non è soltanto una questione chimica. Cioè, la droga di fatto dà una dipendenza che è chimica. Vabbè, e dà uno stimolo che comunque può farti stare bene. Tipo, no, qualche cannetta io me la sono fatta. Sì, diciamo. Vabbè, la canna, però la sigaretta, per esempio, poi va a dare... ti rilassa. No, ti rilassa. Sì, però ti crea una dipendenza nel momento in cui ti manca quella determinata sostanza, vai in crisi di astinenza. Cioè, una vera e propria dipendenza che è basata sulla chimica. Ecco. Il problema è che quando si parla di Facebook, chimica non ce n'è. Chimica non ce n'è, quindi il problema è più in fondo. Sì. E che problema può essere, secondo te? Inconsistenza, psicologica? No, è la società in cui viviamo oggi, è semplice. Praticamente non... abbiamo gli amici su Facebook, ti ho aggiunto agli amici, però vedi, poi ti affacci e non c'è più la cosa che l'amico te viene a suonare a casa. Quindi una solitudine. Sì, possiamo dire che un poco grazie a questo Facebook siamo diventati un po' tutti più soli, grazie a Facebook. Perché se grazie, tu poi ti guardi... molte grazie signor Facebook. Signor Facebook, ci va a scassare la minchia, signor Facebook, ci va dritto per dritto, ci va a scassare la minchia. Che sto dritto per dritto, vedrai. Dritto per dritto. Comunque, sì, perché uno si sta su Facebook, ho 6.000 amici, ho 6.000 amici, poi si gira e dice, minchia, io solo, gli amici che vi chiede poi stanno una cosa gretina, dico, non è che... Dai, Smell Like to Spirit, dei Nirvana. Nirvana. Per esempio, i Nirvana. 87-94, statunitensi. Gruppo Grunge. Qual è la particolarità qui del nostro caro amico del Nirvana? Che era anche lui un... come cazzo si chiamava? Non me lo ricordo manco io. Ma come cazzo si chiamava? Stai tranquillo. No, lo so, Kurt Cobain. Ecco. Questo si faceva di eroina. Si faceva di eroina. Una ma dipendenza. Era una grossa dipendenza, diciamo anche chimica. Ma anche una grossa problematica interna, no, cioè uno che muore, che si va a sparare in testa, no, cioè, si è sparato in bocca, quindi aveva qualche problema al di là della cosa, cioè sì, tu sei il grande divo, tutti ti adorano, tutti ti vogliono, tutti ti desiderano, e magari ci sono le ragazze davanti che ti fanno la fila perché vogliono venire a letto con te, ma una persona che continua ad essere sola, per esempio i Queen. Freddie Mercury, vabbè, non ascoltiamo oggi, però può essere qualche volta glielo infiniamo perché adoro Queen. Anche io. Per esempio, se tu vai a leggere Living on My Own, cioè vivendo da solo praticamente, tu vai a vedere il video dove c'è lui che si impasta tutte feste, sappiamo che lui era omosessuale, c'è infatti nel video tutti che si avvinghiano a fare mega festazze, però proprio in una mega festazza lui ci va a mettere una canzone dove dice di essere da solo. Quindi C'è sempre una mancanza di base, può essere anche la mancanza di un familiare. Di relazioni vere, reali, che non sono fatte soltanto di sballo, soltanto di divertimento, ma di comprensione, di vicinanza, di stare uno vicino all'altro. Sì, bravissimo. Ok, vabbè, Nirvana, Smell Like to Spirit. Bring

Vabbè, però anche questa dipendenza, anzi è strano che non stiamo parlando di mafia, queste cose, perché siamo in Sicilia, perché già lo sai che già partiamo... Scusa, noi siamo al nord non ci sono queste cose. È vero, siamo in centro. Esatto. Ah, io devo fare un piritino. No, dai, per favore. Per allora, favore. No, sennò farebbe interferenza con la RAI. Allora, l'altro giorno ci è venuta l'idea di parlare della mafia. E io ho detto, ma perché? Possiamo aggiungerlo al discorso della dipendenza. Perché? Perché secondo me, in questa società che abbiamo qui a Palermo, in questo modo di vivere, la mafia, in un certo senso, secondo me è pure una dipendenza, non ne puoi fare a meno. Non ne puoi fare a meno, ma che cazzo dici? Sì. Perché? Poi diventa una specie di dipendenza. Che vuol dire? Che entri in questo circolo vizioso, non ne puoi fare a meno. Ah, in questo senso, meno, sì, capito? Sì, sì. C'era... un film che ho visto qualche tempo fa su Leonardo Vitale, che era appunto un mafioso, un ragazzo semplicemente che era cresciuto in una famiglia mafiosa, nato in una famiglia quello che poi si uscita lanciandosi viene ucciso, e questo tizio mafioso perché faceva parte della famiglia di Vitale e di Altarello. E viene cresciuto, il padre era morto, viene cresciuto lo zio Titta e viene fin da piccolo iniziato prima a ammazzare i cani, poi il cavallo, al solito, e poi i primi omicidi, il primo uomo ucciso a 17 un po' anni, come fanno tutti. Sì, il primo ucciso a 17 anni, il secondo a 23 e questo era diventato un capo decina. È arrivato a un certo punto, questo per una fulminazione religiosa, sente il bisogno di levarsi questi omicidi alla coscienza, cosa che naturalmente non poteva fare, e quindi stava veramente male fino a che non decide di fuggire, che già i familiari avevano capito che cosa stava succedendo, decide di fuggire e si rifugia in commissariato, dove è che denuncia praticamente mezza cupola mafiosa. Già allora avevano capito quello che stava facendo, quindi lo avevano portato in un manicomio per cercare di dire che non ci stava, che era pazzo, che non ci stava di testa, e quindi tutto quello che dicevano erano minchiate. Il fatto è che lui aveva una memoria allucinante di ferro, riusciva a ricordare tutti i singoli particolari degli omicidi che aveva fatto e delle cose che riguardavano le persone di cui parlava, e quindi riusciva a creare questi collegamenti. Di fatto il questore gli credeva quello che serviva la sua storia, il capitano non credo che fosse questore. Poi successivamente questo tizio viene rinchiuso nel carcere, nel manicomio criminale. Come vedi, è come una droga. Dico, o ne esci morto o non esci proprio. Infatti alla fine non resti rinchiuso là. Infatti ne uscirà morto. Questo quello che significa è, perfetto, il cristiani, la Chiesa ne parla come struttura di peccato. Ovvero siamo in una struttura dove non riusciamo a uscire. Proprio perché siamo... chi ti ammazzano, non è che sì, siamo... Sì, perché tu non puoi fare nulla per uscirne. Se per esempio sei in un sistema corrotto, difficilmente riuscirai a non essere corrotto, perché se non sei corrotto vieni espulso dal sistema e quindi sei un morto di fame. Sì. Un po' come la società di oggi. O sei come la società di tutta oggi. Tutta la società di oggi, o di sei fatto... emarginato, perfetto. Capisci? Quindi, e poi ci sono delle sub-società che si vanno a collegare alla società di oggi, che fanno poi comunque sempre un po' schifo. Perfetto. Questo si vede non soltanto a questi livelli, macro livelli mafiosi, a livelli amministrativi, eccetera, ma si vede anche nelle strade, dove difficilmente un ragazzo che cresce per strada riesce a vivere la sua vita in maniera pulita. Perché chi cresce nelle strade spesso e volentieri è a contatto con situazioni molto brutte, ragazzi che ti portano, come si dice, a malasciata, e non riesce a uscire da questo circolo. Però ti fa crescere molto, questo lo devo dire. Sì, ti fa crescere. Anch'io sono cresciuto qua sulla strada, però avevo la possibilità di scegliere. Se fossi cresciuto in un altro tipo di quartiere, probabilmente questa possibilità sarebbe stata minore. In ogni caso, condizionata. Possiamo dire che comunque non abbiamo delle famiglie dietro la spalle. Ci sono ragazzi che comunque sono condizionati. O c'è kid o niente, ma uno perfetto. Deve mangiare. La canzone che stiamo per mettere, che si chiama Street, è dei 116 Click. È una versione di DJ Bless, parla appunto di strada. Noi siamo quelli della strada. E viene interpreta, se non sbaglio. Sì, è una questione religiosa. Però lui dice: non è questa una canzone, non è per farti entrare in chiesa, non c'entra niente. Questa è per dire che c'è un Dio che sta, che deve essere anche annunciato per la strada, perché sì. È quello che ti può aiutare a non vivere la tua vita soltanto cercando di peccare, guastare il tuo tempo nel cercare di fare violenza sugli altri. Dice, potrebbe essere tuo fratello, potrebbe essere tua sorella. Abbiamo visto ieri. Sì, volevo no? fare un collegamento. Aspetta, ti ricordi che cosa hai detto? Che se ne detto? Parlava. Ne parliamo dopo la canzone. Okay, ne parliamo vabbè, dopo la canzone. 116 click. Streets. Streak. DJ Blast. Dap, stap, staff, Yeah, DJ G bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, I know you gonna dig this. Hey, we bring this for the street, cause they ain't seen this in the street. But they need this in the street, cause it's mean up in the street. They're redeemed by the street, they used to clean to the street. Ragazzi, questa è una canzone che parla di religione, di Gesù. Ci sono delle parole di religione, di Gesù. Sembra un po' strano, eh? Così, ascoltate. Quando devi trovare a cercare la traduzione. Hey, this ain't aimed at the church, but you might be encouraged. This is for the folks hurt on the block with the birds. See you playing in the dirt, hoping you can get the birds. Steady sipping on your serve, with a Dutch full of perb. Let me tell you what's gonna happen, dawg. This is why I'm rapping, dawg. You catch time for the grinding and the trapping, dawg. Oh, what's worse is it could be a herd. 6 feet up in the dirt, got your baby brother hurt, yeah. Or worse still, when you die, gets real. You eternally separated from God for a trillion, million, billion eternity, man. Ain't no number for it, this should be concerning you, man. Look, you can't sleep cause your sin's so heavy. You're sweating in your sheets cause your sin's so heavy. Ready to die, no, dog, you ain't ready. You don't truly know what's on the other side, young brother. Your sin equals death, so turn from your mess. Believe and confess, Christ is God in the flesh. He died for your debt, he did resurrect. A tool and a vest don't really save you from death. Hey, we bring this for the street, cause they ain't seen this in the street. But they need this in the street, cause it's mean up in the street. They're redeemed by the street, they used to clean to the street. So we saw what those wasn't quenched by the scene of the streets. Hey, we bring this for the street, cause they ain't seen this in the street. But they need this in the street, cause it's mean up in the street. They're redeemed by the street, they used to clean to the street. So we saw what those wasn't quenched by the scene of the streets. They never saw us coming, they had their heads turned. We faced the persecution, we know the land burns. We know the nails hurt, we know the tongue scars. We know our future's bright, but it ain't in the stars. We a new generation, who know the world's hurt. And though we don't rock suits, we still part of the church. Our souls hurt too, our burdens hurt too. We want the Lord to be glorified on the earth too. We wearing dickies, yeah, but we still know the Bible. We young like David Woods, ready to start revival. I know some kids in Dallas still in junior high. They ain't tryna pimp girls, push work or get hot. Yeah, they jeans hanging low and they keep their hat cocked. But they living by the word instead of living by the block. Getting trained a disciple, they chained all their idols. From dudes in the streets to the God of the Bible. Hey, we bring this for the street, cause they ain't seen this in the street. But they need this in the street, cause it's mean up in the street. They're redeemed by the street, they used to clean to the street. So we saw what those wasn't quenched by the scene of the streets. Hey, we bring this for the street, cause they ain't seen this in the street. But they need this in the street, cause it's mean up in the street. They're redeemed by the street, they used to clean to the street. So we saw what those wasn't quenched by the scene of the street. We the redeemed of the street, they used to cling to the street. So we saw what those wasn't quenched by the scene of the street. So we bring this to the street, they ain't seen this in the street. But they need this in the street, cause it's mean up in the street. Chasing cream up in the street, serving fiends in the street. And the screen that they see makes them fiend what they see. To be the man of the street, that's why we stand in the street. To tell the whole world about the standard of peace. The God man of the streets, slain lamb for the street. That came and died for all of the simple people in the street. Through him the cycle of the street. When men rival in the street, could be revival in the street. Take the Bible to the street, because his bride should be the street. Stop trying to be the street. While you lunching men and women steady dying in the street. So we pray up in the street. Man, we stay up in the street, because we find our God's heart. Man, it pains for the street. Hey, we bring this to the street, because they ain't seen this in the street. But they need this in the street, because it's mean up in the street. They redeemed by the street. They used to clean to the street. So we saw what that wasn't quenched by the scene of the streets. Hey, we bring this to the street, because they ain't seen this in the street. But they need this in the street, because it's mean up in the street. They redeemed by the street. They used to clean to the street. So we saw what that wasn't quenched by the scene of the streets. Eccoci tornati. Ma quindi, che te ne pare di questa canzone? È strana, la prima volta che me l'ha fatta sentire, qua quasi non disse, minchia canzone con i Nero, minchia capace, sesso, cose, invece minchia poi mi ha fatto leggere la traduzione, minchia parla di Gesù, cose profonde, cose che ho detto mie, profondità. Non è che parla di Gesù, parla della vita, e la questione è questa, Dio non è una questione, tu vai in chiesa, pigli il primo che ti fa, croce, finito, poi quando ti ne esce, pigli e va ammazzi i cristiani. È il contrario. Cosa che facevano, poi voglio fare un piccolo collegamento, cosa che facevano, voi dovete sapere che tutti i mafiosi, il 90% sono tutti religiosi, mentre andavano a fare i anni scannatini, poi avevano rupete che c'eravano la mazzia, assolva dai peccati e finire. Ma per me non c'è neanche la questione della mazzetta, il prete se ti viene qualcuno a confessarti, deve per forza confessarti anche se ha ammazzato un cristiano. Normale. Sì, vabbè, in quel punto sì, vabbè, ok, sì, non è normale. Punto lui lo il fatto è che dagli anni 80, forse non tutti sanno, che i mafiosi sono scomunicati, quindi sono fuori dalla chiesa. Soltanto se si dissociano dalla mafia, allora possono ricevere i sacramenti. Quindi dall'80 in poi, se il tizio va dal prete a confessarsi e quello gli dice sei mafioso, lui non gli può dare la soluzione. Ma quello lo pagava. Ma lo può pagare, non serve a niente. Cioè, se tu non sei pentito, se tu non esci dall'associazione mafiosa, ti può dire tutte le cose che vuole, ma quella lì non è una soluzione, perché non può farla. E chi l'ha deciso, scusa? La Chiesa. Va bene, ok, la Chiesa, però qua tu stai dicendo che già stai mettendo delle leggi, io questa cosa non la capisco. Ora, la Chiesa dice... se non sei pentito, se non sei così, ecco lì, esatto. Quella cosa, se io ti dico ti benedico nel nome del padre e del fratello Luzio, non vale, non è giusto. Compa, babbiare e babbiare. Dico, non è giusto. Babbiare e babbiare, giusto? Babbiare. Il padre, il figlio e lo spirito santo. E non lo sapevo. No, Luzio. E non lo sapevo. Comunque, uno viene in te e ti dice, il padre del figlio e dello spirito santo sei assolto. Dico, non vale perché l'ha detto la chiesa, l'ha detto la società ecclesiastica. No, intanto perché... Se tu non sei pentito, non puoi avere alcun perdono, è normale. Cioè, io ti chiedo scusa, metti caso, niente in scena, ti metto un pugno, se voglio, ti vengo a chiedere scusa perché mi conviene, però nel frattempo tu sai perfettamente che se potessi te ne darei altri 5 in questo momento, tu mi perdoni? No. No, e l'oddio anche. Vabbè, ma loro quello era un fatto, stavo dicendo che comunque gli davano la mazzetta, perché sennò quelli non lo facevano. Allora, vengo qui da te, ti do la mazzetta. E ti dico, che fai, mi perdoni? Sì. E così funzionava. Ti prendi i soldi? Sì, mi prendi i soldi. E mi stai perdonando davvero? Ma posso anche non perdonarti davvero? C'erano dei preti che sicuramente pensavano, minchia, chi di suona mia e da morirà, speravano che morivano ammazzate tutte quasi. Però intanto, davanti a loro, non osavano neanche dire, ah no, non ti posso perdonare. Ma perché non avevano neanche la cosa di poterlo fare? Non so se mi spiego. Cioè, tu non sai, lui ti sta dicendo, sono pentito, ok? Io non è che sono dentro il suo cuore, giusto? Se io mi vado a confessare perché, che ne so, ho detto una parolaccia a una persona, vado al prete, mi vado a confessare, dico, ho detto questa parolaccia, è un esempio banale, no? Ho detto questa parolaccia, ma non ne sono pentito. Vado al prete, mi confesso, il prete mi dà la soluzione, ma non sono assolto. Mi spiego? Sì. Quindi posso andare al prete tutte le volte che voglio, ma se io non sono veramente pentito, la soluzione non ce l'ho. Al contrario, se io sono veramente pentito e per un caso o per un altro non posso andare dal prete a confessarmi e nel frattempo mi viene una cosa e muoio, questo non vuol dire che non sono perdonato da Dio. Ok, voglio collegare a questo. Perché in punto di morte, se tu cerchi il peccato... Cozzolino! Ci sente Cozzolino! È arrivato! È arrivato il Messia! Il Messia è arrivato, è sceso dal paradiso. Con i suoi capelli ricci. Cozzolino, chiama, che ti mettiamo qua in onda. Cozzolo, chiama su Skype, gli hai mandato il nome. Sì. Cozzolo, chiama su Skype. Che scrivi? Su Va Pensiero, cerca. È sceso, chi è che è sceso? È sceso dal paradiso, l'ha detto dopo. I duci, Nura, c'è la tazza a gabinetto, stava cagando. Ma stiamo parlando di cose serie, stiamo parlando di... E la so, sdrammatizziamo, se noi piacevamo. Cozzolo, chiamaci su Skype, Cozzolo. Comunque, è sceso il riccio. Chiudiamo veramente quel discorso, esatto. Se no fa cacare di fatto in quel modo. Il mio punto era questo, era dire che comunque, chiesa, non chiesa, quello che vuoi, perché voi dovete sapere che ogni volta che io e Riccardo parliamo di chiesa, finisce che ne azzeccami i penne che venne a scrivere a me, e chi ne scannamo, vero, perché dovete sapere che io sono un non credente, non praticante. E lui invece... Se non sei credente, grazie che non sei praticante. Vabbè, sì, ti dico, posso essere un praticante che è un credente. Comunque, e lui invece è un credente praticante. E la cosa... Perché abbiamo creato sta radio, ragazzi? Ora ve lo voglio dire. Perché io dico una cosa, che chiunque può stare bene con chiunque. Basta trovare una cosa dove si vada d'accordo. Anche piccoli punti. Anche che non si va d'accordo su anche quella se non cosa, si va d'accordo. Che anda Riccardo, magari... Su molti punti di vista, mi sta sulla minchia, come lui tipo mi dice che mi sta sulla minchia. Sta la minchia. No, è così, lo puoi dire. No. Tanto poi non ti va a confessare, non ti preoccupare. Io preferisco le ragazze, non per cosa. Vabbè, per adesso con i problemi alla schiena però un aiutino me lo dà. Gli dico, Riccardo, dai, dammi una manuzza che non ce comunque, la faccio. La verità è che noi non lo sappiamo. La verità è che io non lo so. I don't know dei Tinturia. Andiamo, when dai. Andiamo, vai. Where is the meter? Where my little funny duck rolls? The answer in my socks, I don't know. Where is my secret hidden plans? Guardate bene la capruzza di questo video. Quando vado a vedere il video, assomiglia molto a Cozzolino Domenico. Un giorno sentiva un bicilindro tare voci, diceva che la terra mare è dolce. Che tutto lo creato è cosa giusta, ma gente che ci stava testa guasta e un basta. Ormai va come è andato uno, I don't know. E ti cercano funno, I really don't know. Ora può mamma fare, I don't know. Per recuperare, I really don't know. When my all tree, I don't know. Where is the meter, where my little body duck broke? The arms in my socks, I don't know. Where is my secret hidden plans, I really don't know. La terra ormai si fida, chiudi non tu mango di culo, zappa notte e giorno. Lo ghiaccio di Lupolo va squagliando, come lo yuca mi sono lo mecco e attacco. Ora mi dici basta, I don't know. Vuoi dare la colpa all'oggi, I really don't know. Ma se tale in uno specchio, I don't know. Ci trovi la risposta, un basta. Signorazze fa per una e ti pensano solo a guadagnare a fare le melona. Mambina quando usi lo potere per t'arricchire senza lo sudore. Facetemi un favore a fare conti con coscienza, I don't know. Pensi che basta scienza, I really don't know. Ma l'uomo va a capire, I don't know. La forza dell'amore non basta. a girare il mondo. Apriti la coscienza, aumenta la speranza. Voglio ballare oscuro, restare tutto nudo, tornare piccoli. Ora li mettiamo su Facebook. Dai, siamo rientrati, la canzone è finita. Siamo rientrati. Se abbiamo pure difficoltà tecniche, qua l'input se ne parte da solo senza che ce ne accorgiamo, diciamo minchiate. Mentre diciamo minchiate. Minchiate, fortuna che non è partito prima che riceva Uzzolino e Cretino, se sei minchia. No, scherzando, fratemo. Stiamo aspettando il Messia. Il Messia sta cercando il suo microfono. Quindi onestamente non so che sta facendo. Vediamo. Comunque, la canzone dei Tinturia. Riccardo, parlaci un po' di questa canzone. Mi accusa il ricordo come fa questa canzone. I don't know. Il tuo indirizzo Skype è sempre va pensiero. Direttamente, tu metti va pensiero, ti trova e ti mandiamo, cozzolo. Comunque, stavo parlando della canzoncina Inaina che stavo ascoltando. No, belle Tinturie, perché sono comunque un gruppo siciliano che, insomma, boom mia, ci stanno. Questo. Allora, mafia, ritornando alla mafia. No, minchia, che tristezza, basta, mafia. triste. Mafia. Ritornando al mal di schiena. Dai, facciamo una cosa, invece un servizio a tutti quelli che ci stanno ascoltando e si stanno sacrificando nel non guardare le partite. Ah, è verissimo, allora. Allora. Partiamo con la Germania, con la Francia. Sì, che è Francia, da italiana, serie A italiana. Allora, stiamo partendo alle 15, 12:30, Torino-Bologna 1-2. Alle 15, anche se a me del calcio non me ne può fottere una merito cazzo. Alle 15, Lazio e Roma 0-0. Alle 15 sempre, Livorno. Alle 15 è partite, sono partite le... Ah, le partite alle 15. Sono partite alle 15. Siamo al 76esimo minuto di tutte queste partite, okay. Tranne il 79-78esimo di Sampdoria-Cagliari e Verona-Juventus. Allora, partiamo con Lazio-Roma 0-0, Livorno-Genova 0-1. Parma-Catania rimangono tutti e due fermi a 0-0, forza Parma. Catania a me, dai. Sampdoria. Il Napoli perde in Serie C. Sampdoria-Cagliari 1-0, Verona-Juventus 1-2, vince la Juventus. Ok, quindi Cozzolino ancora non riesce a contattarci, evidentemente. Vedi che dal cielo è difficile, il nostro messia, vedi che ci sta da là sopra. Ci vuole. Dal nord Italia, da Milano, bella Marunina. Eppure, vedi questo qua che ci chiama dal nord, e ci dice deve venire qua ad aiutare a noi, che siamo del centro del mondo, all'ombelico del mondo, da Palermo. Vedi, so coi nomi. Allora, 4. Oh, abbiamo 42 ascoltatori. Ma io qua mi vengono i brividi. Mi sto quasi bloccando. Come potremmo ir a mucciare il Roma mattina? Quando esce di chiudere in casa? Rima la fiori. Comunque, ma che fa? La mandiamo un'altra canzoncina? Che cosa mandiamo? Aspetta un attimo, che riprendiamo il nostro software. Ragazzi, radio. Vi mando una canzone molto, molto, molto. Una news. Pharrell Williams con Happy. Happy. È finita la canzone! E ce lo siamo scordati! Allora, qua abbiamo... il cozzolino, il nostro messia che non riesce a collegarsi. Forse è un problema della scheda audio, non riesce a supportare tutte e due le cose fra computer, perché microfono. Perché non abbiamo fatto la prova, no? No, con lo Skype no, a mandare in diretta. Cozzolino, chiamami al cellulare, cozzolo! Chiamami al cellulare. C'è un problema con questa chiamata. Resta in attesa durante il recupero della chiamata. O è lui che su che cadi, cozzo. Oppure abbiamo sbagliato e non è così. Oppure c'è qualche casino, non lo sappiamo. Perché lui guarda. Aspetta, sono io con il contatto. Bravo, l'avevo capito comunque. Sì, però il problema è non riesce a partire. Mi chiami al cellulare, cozzolo, almeno. Così andiamo almeno in diretta. Facciami impazzire un po' di girl. Con la tua vocina sensuale napoletana. Comunque, stiamo dando troppa importanza a questo tizio. Che non sappiamo chi sia, non lo so. Perciò, come hai conosciuto il cozzolino? Raccontaci. L'ho conosciuto a Londra. Ci siamo ritrovati a vivere nella stessa casa. Ah, non sapevo delle tue preferenze. Sì, ma... vivere nella stessa casa. Siamo divertiti. E ci siamo ritrovati. Poi siamo partiti animatori, anche se non ci siamo visti. Non ci vediamo da Londra, praticamente. Non ti mi manchi! Dai, che va su, calava. Dai, questo atteggiamento scurrile. Siamo un parrino, sì. Sta arrivando il tè, scusate che è il momento tè. Ora entra mia madre e ci dà il tè. Prima dice, ma che dovete fare queste cose? Non ci credo qua, che schifo, dovete fare? E poi alla fine dice, no, posso venire pure io, posso ascoltare, posso mettermi qui. Ed eccolo, cozzolino! Cozzolo! Mettile viva voce. Cozzolo! È morto Cozzolo. Niente, non gli funziona neanche il cellulare Cozzolo, l'abbiamo capito. Domenicuccio. Uccio. Perciò, comunque, mandiamo qualche canzoncino. Canzoncino ancora? Sì. Non vogliamo parlare della tua esperienza... Sessuali? No, non ne parlo in radio. Non è una cosa che voglio parlare. No, sono un tipo timiduccio. Delle tue esperienze a Londra. Ma che esperienza? Non so se eri fidanzato diverso. In quel tempo, però magari ce ne puoi raccontare. No, non ero fidanzato. Ma esperienza a Londra in che senso? Che cosa hai fatto? Come ti sei trovato? Ho cercato lavoro, mi sono trovato bene, dai, questo lo devo dire. Il problema è che Londra è molto, molto, molto cara. Londra è una città carissima. E comunque vanno tutti lì. C'è praticamente una spopolazione in Italia di ragazzi, di giovani, soprattutto quest'anno. Quindi devo darvi un consiglio, ragazzi, non partite per Londra. Cercate su internet invece altre destinazioni. Per esempio c'è una mia amica che mi ha detto ti trovo un lavoro a Mosca. Ecco, Mosca. Mosca. Budapest, ragazzi, Budapest è una città favolosa. Cercate in questi posti. Londra sì, è una bella città, se conti qualcosa, perché là devi fare veramente un culo quanto una casa. A sto punto, da quello che dico io me ne sto a Palermo e mi faccio un culo quanto una casa a Palermo, perché tanto a Londra che cazzo va a fare? Eppure sai, c'era una mia amica che mi raccontava, una mia amica del nord dell'Inghilterra, andiamo nel nord, e mi diceva che per fare la sguattera, dice lavavi i piatti, in una sorta di McDonald's, non era McDonald's, di negozio, di ristorante, prendeva qualcosa come 1200 euro al mese e lavorava poco. Pronto? Pronto? Ed eccolo il nostro... Ma questo è il tuo... Questo è il nostro messia, un secondo di silenzio, saluta, saluta, cozzolo. Ma si sente così male il tuo telefono? Minchia, si sente una merda. Non ti sentiamo, cozzolo. Domenico. È morto. Oh. Ma perché il tuo contatto Skype continua a essere ma morto? Ma poi io mi chiedo una cosa, ma perché è lì a Cobal? Perché... eh? Non si sente niente. Ma questa è la mia voce? Allora, aspetta, mettiamo un po' di musica e noi risistemiamo questa situazione con il nostro cozzolino, Domenico. Che cosa mi mettiamo? Ah. Vediamo un po'. Al secondo che mandiamo una canzone. Vediamo... Manda una canzone, Ricky. Vediamo una canzone, un po'. Non lo so, non mandare però. Vediamo un po' cosa possiamo mettere. Un'altra dei di DJ G Bless, Name Above All Name. Sempre una canzone molto religiosa. Concelo. Nome sopra tutti gli altri nomi. Name above all names. Name above all names. Name above our name, name above our name, name above our name, name above our name, name above our name, yeah, name above our name, name above our name. Name above our name. It's the name above our name. The reason I done switched lane. The reason I don't need the fame. The reason I ain't never shame. The reason why I stay on flame. Olympic torch, like the sun I scorch. Lift my hands out on the porch. I keep the sun rays. I'm a reflection of him. Call me Sun Ray. I'ma sit up at his feet one day. I'm going out in the gun blaze. Fingers on my Bible page. I gorilla out the cage. I ain't talking animals. I eat the word cannibal. I'm on a flesh diet, call me ex-cannibal. Face up in the Bible like a kid eating a cantaloupe. I get way high like a big bowl of dough. But this big bowl is full of hope. I got my flesh on the remote. Turn it down and off TiVo. I'm old school like a Beatle. I'm on that John Paul, no Ringo. Unbeliever, put that B up on my forehead. BMO. Yeah. Name above all names. Name above all names. Name above all names. Name above all names. Name above our name. Name above our name. Name above our name. Name above our name. Name above our name. Name above our name. Name above our name. Name above our name. He's the name above our names. Jehovah Jireh, King of Peace, Lord of Lords, my soul's provider. Creator, God, the man who gets the glory. Cause he created all creation to megaphone a story. Tell of all his majesty gladly with the audacity to practically brag on the man above the gravity. So till the day comes when that trumpet blows loud, you gon' see us rep the name to every single crowd. From the front to the back, to side to side, we gon' reach real wide till we're down the ride. So get it like we get it as we do it through the spirit. Ain't no fear up in the lyrics, so listen up and hear it. Don't be the one that's steering, cause the second coming near it. You should be switching gears, never to be fearing. Off the path of the light that's revealed in the night. So faith as you fight for your life. And as you go, give glory to the Father and keep your eyes fixed on Jesus walking on the water. It's his name alone, yeah, we don't deserve it. So give praise to the King, we have a chance just to serve him. Name above all names. Name above all names. Name above all names. Name above all names. Name above our name, name above our name, name above our name, name above our name, name above our name, name above our name, name above our name, name above our name. This man witnessed a traumatic event that would alter the course of Yus's life forever. Yeah, DJ G Bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, E vi ricordiamo Name a Boba's Name di Cultura. No, no, no, in Blow, com'era? Insieme a Futura. A Futura, ricordiamo che è sempre una canzone che parla di chiesa. Above All Name è appunto il nome sopra tutti i nomi. Ecco, il nome sopra tutti i nomi. Cozzolino Domenico! No! Eccolo che ve lo presento! Ho trovato difficoltà nello scendere dal cielo perché ha girato un po' di casino. Troppi aerei che passavano. Sono riuscito a scendere, diciamo, ho trovato difficoltà, però sono sceso. Cozzolino, come stai? Sono pure tutto a posto, ma tu? Oh, è vero che tu pure fai radio lì a Napoli, fai un po' di pubblicità alla tua radio. Poi non un po' di Radio Studio M, diciamo, per canzone quella pura, diciamo, trovate Lucio Battisti, Lucio Dal, mio vero, ci sta Carmelo Zappulla, tutti cantanti emergenti, diciamo, neomelodici. Però meglio la vostra radio, meglio Stiamo parlando. Ora, in tuo onore, in tuo onore magari mettiamo una bella canzone napoletana. Se il nostro oggi Riccardo, il nostro la settimana, qualche bella canzone così che state mettendo, che è il massimo. Grazie. Dai, grazie, suggeriscici una canzone che io vedo di scaricarla e vedo in qualche modo di mandarla in onda. E non la prossima, magari quella successiva. Ragazzi, solo una domanda, perché sto fuori, io attualmente sto fuori al balcone, perché all'interno non posso entrare perché sta mio padre che sta dormendo e mi ha cacciato fuori. Volevo dire una cosa, ma stiamo in diretta? Siamo in diretta, Vabbè, dai, giusto per capire, per capire che stava succedendo. La situazione meglio. Comunque, mi sta ascoltando, oggi state scassando, siete fortissimi. Grazie. Non mi sta ascoltando, però lo devo dire perché mi avete costretto, lo diciamolo perché... Minchia, ieri gli abbiamo mandato una tesse cavallo mozzata. Io aspetto pure il cannolo siciliano, che qua tutti quanti lo stanno aspettando. Io devo suonare un mio cannolo siciliano. quello grosso, Compa, se tu vai, ci sono posti in Sicilia dove veramente il cannolo è veramente un cannone. Cioè, nel senso che tu vai verso il Trapani, il trapanese che è nella Sicilia occidentale. Riccardo, aspetta, ti devo fermare. Un cannone. Ti devo fermare, aspetta, ti devo fermare. Detto in questo modo, è come se tu hai provato proprio cannolo trapanese, catanese. Quindi sembra quasi che non suona bene. Sembra che ti piace un po' il cannolo. Il cannolo è buonissimo, è quello là che ti riempie la bocca. bello di ricotta. Oh, ma vedi che mi sto sentendo in una radio gay 2000. Quello buono, quello con la ricotta. Wow, quello che ti esplode in bocca quando lo mozzichi. Quando esce bilaterale dal... Ragazzi, diamola. Siamo sempre ospitati da Radio Va Pensiero, vi ricordo. Ah, siamo ospitati. No, si parla di dolce, qua sì. Si parla di dolce. Sì. Ma noi comunque... Dopo pranzo. Comunque, Cozzolo, lo dobbiamo dire, no? Penso che tutti quanti qua stanno mangiando, sono arrivati al dolce, no? Esatto. Comunque, dobbiamo dire che Cozzolo è un bravo ragazzo, no? Dobbiamo raccontare... Cozzolo, dobbiamo raccontare un aneddoto di Londra, di quello che ci è successo. Di quante cose dobbiamo raccontare? Non lo so, una. Raccontiamo l'aneddoto di quando siamo tornati alle 5 di mattina. Ubriachi oppure era 9? Dov'era la situazione? No. Quando siamo tornati... Quando abbiamo creato quella festa dentro il pullman. Dal nulla è uscito un pane. Che è stato favoloso. Dal nulla tu vedi tutte queste ragazze e ragazzi che ballano dentro a fare bordello con alcol, casino. E noi che cercavamo di nasconderci la birra. E loro che entrano con gli... Mai non ho capito che succede. Ma spiegate una cosa. Dai. Allora, praticamente siamo ritrovati dentro questo pullman. Lo sai, pullman, questo autobus a due piani. Due piazze. Noi siamo entrati con la birra tutta nascosta. E noi che cercavamo di nascondere la birra, perché noi ci sta un altro amico nostro che diceva: no, ragazzi, non si fanno queste cose qua. Nel frattempo, le ragazze che stavano davanti a noi stanno facendo il tutto e di più. Poi insieme all'autista, l'autista si è fermato e ha cominciato a bere. Noi ancora a nasconderci con la birra. Sì, noi ci nascondevamo la birra, intanto c'erano quelli sopra che facevano il delirio. Ma è esagerato, guarda, è capitato il tutto e il di più. Ma quanto ci manca l'onda, quanto ci manca? Prego, prego, no, perché non... Qua sai com'è, qua arriva sempre in ritardo. No, mi cerco sempre di ascoltarvi, sia in radio che a telefono, quindi rispondo sempre due volte. Lo so, è un problema. Spegnila la radio, ci ascoltaci per ora di qua. Ah no, va bene, ti ascolto da qua, come stai dicendo? Io stavo dicendo quanto ci manca Londra, quanto ci manca. Sai, vai giù, c'è esperienze che si fanno a Londra che penso che ti formano, ti forgiano. Anche perché ti ritrovi da solo poi, sei tu con Londra. Tu sei tu con Londra, ma te ricordi quando ti ho visto la prima volta che scendevi dalle scale nudo? Io con la vestaglia. In mutande. Ti sei innamorato praticamente. Mi innamorai subito, la prima kiss, no? È la prima cosa che disse Pietro. Dov'è? Andiamo a ragazze, ma non mi vedo. Non è che è il tempo di organizzarci comunque. Ma tu senti qualcosa in radio oltre a noi? Perché qua ci arrivano segnalazioni. Segnalazioni di che cosa? Mi stanno cancellando per il troppo. È successo qualcosa? No, non sento, perché molto... No, ok, allora c'è una ma forse ci fanno gli scherzi allora. Non lo so, no, praticamente c'è un po' di casino qua, si sta accapando una minchia. Ma ti senti almeno, cosa sta succedendo? No, niente, allora, apposta, abbiamo risolto. Se hai sentito una canzone di sottofondo senza nessun motivo. Praticamente qua ci siamo inventati una radio dal nulla, abbiamo trovato... un programma, abbiamo trovato quattro idee raccapezzate, abbiamo provato a fare sta cosa, però è sempre una cosa in fieri, da un momento all'altro può esplodere il computer, non sappiamo perché. Radio Pakistan, esatto. Dai, allora ce la vuoi dire questa canzone, che nel frattempo poi noi andiamo a mettere qualcos'altro, mettiamo Jubel di Klingade di nuovo. No, non l'abbiamo messa. l'abbiamo detto poco fa, ma non l'abbiamo messa alla fine. No, ragazzi, Dire Straits, Sultan of Swing. Aspetta, va bene, ora la cerchiamo. Com'è? Ripeti? Dire Straits. Ah, Dire Straits. Sultan of Swing. Certo che in napoletano... andarla a cercare in napoletano è un po' difficile, eh? I'm Ed eccoci di nuovo, vorrei dirti che c'è la canzone di sottofondo, devi andare a chiudere il sito. Porca miseria. Ricordiamo di nuovo questa canzone che abbiamo appena messo, questa song che è... Jungle. Jungle. Di? Clingate. Clingate, Clingate. Diciamo un nome a muzzo perché sì, non l'ho fatto sì. Ricordare. Anche a Londra, quindi... Sì, ricordiamo che sono stato anche a Londra, come dice il nostro cozzo. E va a cercare a me pure. Vabbè, pure io sono stato in Inghilterra, però lasciamo perdere. Adesso mettiamo un'altra canzoncina, se il nostro Riccardo, il nostro DJ One Nation, One Station, One Nation. Se mi dai tempo, perché qua ancora... 5, sono musica italiana. Intanto salutiamo i ragazzi dell'associazione Air Radio che si occupa appunto dell'associazione di radiantisti che ci stanno ascoltando in questo momento e che si occupano appunto di stare lì con la radio tutta la notte a sentire trasmissioni in tutte le lingue del mondo. Che una non... cosa carina, una cosa sì, bella, sì, una sì, bella organizzazione. Salutiamo tutti. E i vari amici di Pietro, i vari amici di Riccardo. Salutiamo un po' tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Ecco, tu continua a parlare che io nel frattempo faccio il DJ che vado a cercare la cosa. Sto ancora al telefono, faccio pure un saluto, mi trovo, mi inserisco nella discussione. Vai. E tanto sono il messia, capi, mi trovo sempre di mezzo, ma dico faccio un saluto. Saluto anche Cristina e Via e Carla. Che stanno qua, che dicono che siete fortissime, quindi... Grazie a Cristina, grazie. Carla, grazie. Ragazzi, comunque stavo scherzando, mi hanno pagato anche loro. non è vero, siete forti, ragazzi. Grazie. Dai, adesso... Ma che tempo c'è lì a Napoli? Adesso... Un tempo... Non me la faccio, vedo meglio. Che cos'è? È passato, è trapassato remoto? Che tempo è? Presente, futuro? Passato remoto, veramente passato, ragazzi. Passa tipo Pomarone, forse. Che cosa? Che Pomarone in coppa, se. Pomarone, questo è un tempo che Pomarone in coppa, veramente. Forte, quasi forte. Praticamente bevendo il tè, pensavo. Ah, ora. Stava arruciando a Pietro. Il nostro DJ ha forse messo la canzone. Sì, vero? Siamo pronti per i Dire Straits con Sultan of Swing. Che è la canzone che dedico io a Cozzolo. Vai, Domenico. Siamo emozionati. Questo è per te. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie. Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys there fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Rieccoci, veramente una canzone favolosa, favolosa, consigliata dal nostro amico Cozzolo, che stiamo per richiamare, se riusciamo. Ora stiamo richiamando tutto in diretta. La cosa bella della diretta che è questa, le cose vengono a cazzo di cane, però vengono bene, viene un bel cazzo di cane. Ora ci risponde la mamma. Ci risponde la mamma, sentiamo. Ed eccolo a Cozzo. Allora, vi dico la verità, Mischinello, si stava congelando e mi ha fatto: ragazzoni, io fatemi uscire e mi richiamate perché sto morendo di freddo. Io veramente mi stavo congelando. Ho detto pure aspetta, ma era meglio staccare, quindi richiamare. Meglio. Così adesso ti stai continuando a ricongelare, eccolo qui. Ora mi sto ricongelando, ma per voi questo è l'altro, quale problema? Che bello. Però questa volta mi sono portato un piumino fuori, non è che stiamo rumendo papà. Ma potevi andare anche in un certo posto per trovare un po' di intimità, dico, anche lì. Ah, perfetto. Però là se cos'è, mi viene lo stimolo. Esatto. Non vorremmo sentire il puff finale. Però là, Lo fa. E poi ti bagni anche. Che schifo. Oh, adesso parliamo un po' di una cosa seria. Okay, avevo un piccolo argomento. Dato che noi avevamo attaccato con la mafia e tutte queste cose, con il la droga, non so se hai sentito, già ci sentivi mentre che parlavamo di dipendenze, droga e mafia. A partire dal caffè, che c'è una grossa piaga a Napoli, che si dice che abbiamo visto pure il film Benvenuti al Sud, dove si beve tantissimo caffè, c'è veramente una piaga. Che cosa ce ne cosa ci dici di questa grave situazione sociale? Ragazzi, però se ripetete, perché non riesco a sentire bene qua. E che cacchio, devo bruciare. Niente, praticamente si sto serio, allora cercavo di concentrarmi nel parlare serio anche io, quindi si stava parlando semplicemente che praticamente si stava parlando, siamo partiti dal caffè, no? Siamo partiti da Benvenuti al Sud. Benvenuti al Sud, perché no? Perché voi che state lì al nord, a Napoli, cioè sappiamo che c'è questa grave crisi, che quando viene qualcuno dall'ultra nord, siamo caffè a gugu, esatto, che mischino, iper eccitati, c'era questo povero Claudio Bisio che si ritrovava lì a bere caffè, a bere caffè, tanto che dice imponiamo il no milanese e si imbriaca. Quindi tu che ci parli, che cosa ci sai dire di questa grave piaga sociale che vive a Napoli, il nord di Napoli? Qua quando viene un ospite, noi ci stiamo, dobbiamo dargli tutto, ma cioè, partiamo dal primo al secondo, devono mangiarsi di tutto perché sembra brutto, dai? È come se ci offendessi. Certo, è un po' come qua. Ma voi quando... devi mangiare, devi essere, devi dire anche che è buono, anche quando non è buono. Se no ti picchio. Noi ci offendiamo, capito? Ma è buono. Come di casa, cioè, si può mangiare di tutto nel momento in cui dici magari che non è buono, paghi e te ne vai pure, dai? Come è una concezione nostra un po' particolare, però funziona, per il momento funziona, capito? Per il momento funziona. Entri secco e te ne esci giatto, così funziona qua a Napoli. Poi nel film c'è una bella cosa, che dicono, quando vieni a Napoli piangi due volte, quando vieni e quando te ne vai. Perché se vieni con l'orologio... se ne vai senza, capito? Ha capito che l'ha modificata. Io volevo dare un punto a favore al Napoli, al sud, e tu ci metti al nord. Napoli è al nord. È vero, vai giù. Allora, quando lo si dice perché si scherza, ma si sta bene. Purtroppo molte delle volte si vede ciò che non è di Napoli, si parla solo delle cose negative. Ma anche come in Sicilia, per esempio. Come di Palermo. Palermo siano molto uguali. Infatti. Sì. Per esempio, si parla sempre qua, ora è caduta una palazzina nel pieno del centro storico, hanno chiuso praticamente mezzo mercato rionale. Dice, ma perché si deve parlare sempre male? Non è vero che è caduto, no! È soltanto così una bellina... Voleva riposare un po' con la palazzina. No. Ecco, era stanca. Cazzo, le vibrazioni della musica è caduta. Almeno 150 anni che era disabile. Scusa, è diventata una notizia eclatante, ma non ci capito. Ma... però non si può riposare un po'. Ma io non lo so. Guarda, cerco di mettere sempre le cose negative della situazione, mentre ci sono molte cose positive. Nella situazione in generale. Aspetta, Gitto, non lo so, però comunque. Comunque, noi aspettiamo ancora il giorno in cui esce il sole. Ah, esce il sole. Tu. Lo dice pure un cantante, se non mi sbaglio, vero? E chi è? Chi è questo che cantava? Uno col caschetto, brutto, però. No, brutto, era basso, se non sbaglio, era molto basso, un po' come te, no? Se voi vi ricordate, andava a mare. Cioè, col caldo afoso. Ma che stava con Mary per caso? E lì con il maglioncino alto, se vi ricordate. Maglioncino rosso era. Ma non il maglioncino rosso, sangue, no? Per il caldo. Quello che stava con Mary per sempre, no? forza che con Nino D'Angelo esce o solo. E noi salutiamo il nostro cozzolino con questa canzone. Grande. Ti vogliamo bene pure noi, un bacione Cozzolo. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Cozzo, ciao Domenico. Aspettando chi, consumando i ornelloni, senza vivere, pure se mi sbatto con, e parlando a chi, non mi sento più nessuno, sembra correre, tutte macchine e persone hanno un madre in da sto tempo. Sono carne e ossa vacante, sono come chiese rumeniche, hanno un grido di santo. Esce sola sotto la montagna, senta sto pensiera, senta come salagna. Esce sola, non se magna, mette a mezzo pane una carezza compagna. Dite mani chi, e lasciami figlio nostro senza regole. Con pochissimi filatomici, condannati senza fa niente, pieza su mondo vacante, a scanze fosse sto secolo, a campo da speranza. Esce sola sotto la montagna, senta sto pensiera, senta come salagna. Esce sola, non se la magna, mette a mezzo pane una carezza compagna. Atoma verde, atoma vai scordando, inutilmente, tu che ti hai chiuso senza tutto niente, tu che fai parlo niente, si dosi insieme. Ehi, Coxolo, Coxolo, già mi manca! Già mi manca tanto! Ragazzi, si era bloccato un pochino tutto. Quasi è bloccato il computer, porca miseria, va. Oh, tutto perfetto, alla fine si va a bloccare il computer. Comunque, ora voglio salutare tutti. Grazie per chi ci ha ascoltato. Per chi non ci ha ascoltato, un vaffanculo. Dai, ci sarà la replica. Ci sarà la replica. Comunque ci sarà, e metteremo anche la registrazione su Facebook. La replica si chiama. Ah, si chiama replica. Il mio dizionario si va aggiornando sempre di hai più. Hai visto, hai. Grazie al nostro Parrinazzo. Ora io voglio fare un saluto a te, Parrinazzo, perché ora mi vado a distendere due minuti con un ciavazzucchio. Chiamiamoci per nome, ma se no diciamo Riccardo e il nostro scavazzato Pietro. Ti saluto, va cuicate ora, ti va. E chi già sognò abbastanza cliccato. E ora vi salutiamo con la nostra jingle un po' cretinetta che abbiamo fatto, ma a noi piace. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Oh Ricca, ma quando mi esci su caffè? Pietro, è uscito, vieni. Ma che vieni? Puoi tenere il lungo pianerottolo. For you, there's nothing in this world I